voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Sì, però anche tu, ti sembra a caso di dormire con la maglietta di Sforza? E quella di Ronaldo era finita. Profumo di Eclettica. We'll be right back. La quarta parte di Ecletica si è aperta con un salto nel passato, nelle playlist del passato. Questa era la playlist del 1999, anno di uscita del disco d'esordio Accept the Signal da parte degli inglesi Regular Flies, un gruppo, questo delle patatine regolari, che a me aveva molto colpito. L'avevo tanto trasmessi con questo brano, anche un altro, poi ce n'era stato anche un terzo, passato un po' di meno. Comunque sia Dust It, quella che vi siete ascoltati, che King Kong hanno caratterizzato veramente per tantissimo tempo le playlist di Ecletica. Una band che allora era stato difficile catalogare fra il rock e l'elettronica, per esempio erano spesso in giro con i Low Fidelity All Stars, che purtroppo non ha raccolto quanto di buono ha seminato. Secondo me sono uno dei gruppi veramente più presi sotto gamba della storia degli ultimi 10 anni della musica, e magari per loro farà un'eccezione. Ritornerò ancora su questo disco settimana prossima in Pillola d'Ecletica per farvi sentire quanto è bella e anche quanto è diversa rispetto a questa Dust It King Kong. Vediamo se settimana prossima manterrò questo proposito. Ora ci trasferiamo su Monta, quello tedesco, perché ci sono due progetti a nome Monta, entrambi passati negli anni all'interno di Ecletica. Uno di Kansas City, che è un gruppo, e un altro invece di Monaco, di Baviera, ed è uno pseudonimo per Tobias Kuhn, che per 10 anni è stato voce e compositore della band dei Miles, ed ora si è dedicato da 2 album a questa parte la carriera solista, appunto con lo pseudonimo Monta. Esce per Klein Records un nuovo album, uscito il 29 di gennaio, The Brilliant Masses, il suo secondo, dal quale noi ci ascoltiamo la traccia intitolata Good Morning Stranger. Good morning stranger, good morning sun, good morning stranger, what have you become? Good morning stranger, good morning sun, good morning stranger, what have you become? The world is a bug wrapped within a sheet, always protected in motion while we sleep, with eyes wide open in a box ready to ship. I'm waiting for a signal before everyone gets hit. Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you? Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become? The world is a bug, and it sucks all your blood. It's juvenile and forgotten. It loves to be loved. The river runs deep. It covers all these lines. Every single piece of you. Every single piece of me. Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning. What have you become? Good morning, stranger. Good morning, sun. Good morning, stranger. What have you become? Down and sleep. Sing. Good morning, stranger. Good morning, sun.

rules, and I still believe in the phrases that we breathed, but I know the distance isn't fair to cross. I was out of your league, and you were 20,000 underneath the sea, waving affections. You were out of my league, at a distance that I didn't wanna see. Wanted you nearer. Your depths made a pressure that punctured my works, and all your fluids couldn't tolerate the force of my thirst. I love the place where we shared our tiny grace, but just because it's real don't mean it's gonna work. I was out of your league, and you were 20,000 Paper Television. Non ci siamo ascoltati la solita Parentheses, ma True Affection, brano che settimana scorsa era stato anche oggetto di pillola. Eclettica, che in questa sua parte, in questa sua settimana, si avvicina sempre di più alla fine e ci arriva, non proprio alla fine, ma quasi, con ancora della musica basata sui suoni elettronici. Lui si chiama Clark, incide per la Warp Records e dal suo album Body Riddle ci ascoltiamo fra tracce che sono in alcuni casi molto Aphex Twin, invece quella che è forse più pop di tutte, Clark, con il brano dal titolo Ted. We'll be right back. Passami la Marta adesso. Te la passo. Ma che passi, che passi? Passa. A disgraziati, figlia della mignotta. Mando cazzo state. Ma non me ne frega un cazzo se c'è la colica o c'è la lebbra. Amore. Per piacere, state zitti. Zitti e fermi. Senti tutti che sto parlando. Oh, e poi mi ero raccomandato. Mi ero raccomandato, qui sono conosciuto, questo è un posto di classe, di lusso. Qui ci vengono solo i signori, hai capito? Per non parlare poi della figura di merda che mi avete fatto fare col prete. Vabbè, mi dispiace, ho capito. Ma mi dispiace un cazzo, ma voglio sapere. Sì, ma adesso passami mia moglie. Come? Che dici? Ti ho chiesto di passarmi mia moglie. Ragazzi, io avverto, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve li butto nella fogna da cui vorrò raccolto. È chiaro? È chiaro? À Paris, au couvent des Capucines, Robertson s'avance vers le public. Mesdames, messieurs, ce qui va se passer dans quelques instants devant vos yeux n'est pas un spectacle frivole. Il est conçu pour l'homme qui pense, pour le philosophe qui aime se perdre un instant entre les tombes. C'est aussi un spectacle utile à l'homme qui se laisse transporter par l'aspect étrange de l'imagination. Lorsque celle-ci rassemble la force et la transgression. La lanterne magique. La lanterne magique. Aspire les ombres, des caractéristiques des sortilèges, des travaux occultes de la magie. Cette terreur que presque tous les hommes ont éprouvée dans leur enfance et que certains encore portent en eux. Thank you. Eclettica questa settimana si è chiusa con il brano che dà il titolo all'ultimo album dei Grey Moon, ovvero sia La Lanterne Magique. Giulio Caperdoni vi rimanda alla prossima, ricordandovi due indirizzi per rimanere in contatto: giulio@radiorockfm.com e myspace.com/eclettica.